Quanti campanari ci vogliono per suonare una campana alla bolognese? Sembra l'adagio di una vecchia barzelletta, ma la risposta non è esattamente una battuta. Ne servono ben 23. Occorre tuttavia fare una precisazione. La campana in questione non è una campana qualsiasi, ma quella montata in cima al campanile della Cattedrale Metropolitana di San Pietro e, alla bolognese, significa in modo cadenzato e con rotazione completa della campana. La nonna, come è affettuosamente chiamata la campana, pesa ben 33 quintali ed è affiancata da altre 3 campane, per un concerto complessivo di 65 quintali. I 23 campanari sono necessari appunto nelle rare occasioni in cui vengono fatte suonare tutte e 4 insieme. Alto ben 70 metri, il campanile è di fatto la seconda torre più alta della città, ma ha anche un'altra particolarità. Per illustrarla è necessario raccontare brevemente la storia della Cattedrale di San Pietro. Le origini dell'edificio risalgono agli albori dell'epoca cristiana, anche se le prime testimonianze scritte sono datate al X secolo. C'è un disegno di Giuliano da San Gallo, conservato nella Biblioteca Vaticana, che ritrae l'antica cattedrale a pianta ottagonale, assomigliante al ravennate battistero degli Ariani, con annesso un campanile di forma rotonda alto 31 metri. Nel 1141 un devastante incendio rese necessaria la ricostruzione della cattedrale. Ricordate? Ne abbiamo parlato nel capitolo dedicato a San Petronio. Fu in quella occasione, infatti, che il vescovo Enrico fu costretto ad abbandonare la sede vescovile per trasferirsi nel complesso di Santo Stefano, dove rinvenne le spoglie del santo patrono di Bologna. La nuova cattedrale fu costruita in stile romanico, a 3 navate con archi a sesto acuto, e il campanile fu elevato a 40 metri. È del 1220, invece, la costruzione del portale in marmo, così pregiato da impressionare il Vasari, ne parlò nel Vite, che come sappiamo era piuttosto diffidente nei confronti dell'architettura medievale. Fu lui infatti a coniare il termine gotico in senso dispregiativo, come stile barbarico, persino vandalico, contrapposto a quello classico e alla sua rinascita avvenuta nel periodo rinascimentale. Il portale, realizzato dal maestro Ventura, era chiamato Porta dei Leoni, per via dei 2 leoni in marmo rosso posizionati ai lati e dai quali si innalzavano 2 colonne sormontate da un'arcata. I 2 leoni sono oggi conservati all'interno della chiesa, dove sono utilizzati come acquasantiere. Con il succedersi dei secoli, la cattedrale fu sottoposta a numerosi interventi di ristrutturazione dovuta a calamità naturali o a necessità di ampliamento, fino al completo rifacimento avvenuto tra il 600 e il 700. Purtroppo, i rimaneggiamenti della struttura finirono per distruggere gli affreschi quattrocenteschi dei pittori ferraresi Francesco del Cossa ed Ercole de Roberti, opere così significative da influenzare sia Niccolò dell'Arca sia Michelangelo. Il campanile a forma quadrata che ancora oggi svetta al lato della cattedrale è stato iniziato nel 1184 e terminato nel 1426. È stato costruito senza abbattere l'esistente struttura paleoromanica circolare, che costituisce quindi un campanile dentro il campanile. Una curiosità. Il sagrato della cattedrale di San Pietro era un tempo considerato l'ombelico di Bologna. Scrive il Guidicini nel suo Cose notabili. Nell'angolo di questo vicolo dalla parte del seminario era conficcato in terra un pezzo d'antica colonna scanellata che serviva di termine ad un marciapiede e che pretendevasi essere il punto centrale o l'ombelico della città. Dicevasi che da questo tronco di colonna alla porta di San Felice e a quella di Strada Maggiore vi fossero pertiche 352 e a quella di Galliera e di San Mamolo 276, lo che darebbe la differenza fra i 2 semidiametri di pertiche 66. Alma Mater.